Mio padre rimaneva fuori 7-8 mesi. Quando tornava, eravamo piccolini, non lo riconoscevamo, ma è successo anche a mia sorella. Quindi lui tornava, dormiva con mia madre ed era un estraneo. Quindi ci riempiva di giocattoli perché era consapevole di questo problema che gli creavamo. Ma io non solo i giocattoli, ma riportava l'ananas sciroppato in barattolo, mi ricordo, riportava tutti i frutti, le gomme americane, vabbè, navigava, quindi avevo occasione di poter comprare queste cose.